Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Da alcuni anni ormai esiste la possibilità di effettuare traduzioni automatiche in internet. Per esempio, se fate una ricerca su Google e questa vi dà come risultato delle pagine scritte in una lingua che non conoscete, basta cliccare su Translate this page per averne una versione tradotta in italiano oppure in inglese. Queste traduzioni sono migliorate col tempo e hanno ormai raggiunto una certa affidabilità, ben diversa da quella anche di soli pochi anni fa. Tuttavia, la strada ancora da percorrere per ottenere traduzioni del tutto affidabili è lunga ed è una strada parallela a quella che mira più in generale a rendere possibile l'interazione con i computer in linguaggio naturale. A che punto siamo e quali saranno i prossimi step di questo percorso di innovazione così affascinante è il tema di questa sera. Ne parliamo con Marco Trombetti, che è fondatore di Translated, che è una delle più influenti case di traduzione nel mondo, che tra l'altro collabora strettamente proprio con Google. Buonasera Trombetti. Buonasera a tutti, ciao Maurizio. Dunque Marco, io ti chiederei, per cominciare, proprio di spiegarci in breve qual è l'approccio adottato attualmente dai traduttori automatici, quelli che appunto possiamo utilizzare noi tutti su internet. Allora, oggi, fino a qualche anno fa, le traduzioni che voi vedevate erano fatte da sistemi basati su delle regole, cioè si insegnava con un dizionario al sistema di traduzione a tradurre, quindi questa parola si traduce in questo modo, e in più venivano date delle regole per dire guarda che l'aggettivo sta prima del nome in inglese, quindi c'erano delle piccole regole, no? Di traduzione, riordinamento e un dizionario. Questi erano i vecchi sistemi Babelfish di Alta Vista, se qualcuno se lo ricorda. Attualmente invece si lavora con sistemi statistici, che significa che prendiamo tutto ciò che è stato tradotto prima e cerchiamo di apprendere da queste traduzioni le regole di traduzione, quindi non siamo più noi a scriverle, ma il sistema che le apprende dai testi stessi. Ad esempio, immaginiamo che noi abbiamo visto la traduzione di due frasi, la casa è rossa e la casa è bella. Il sistema, guardando le differenze di queste cose, può scoprire che la casa è, si traduce the house is, ad esempio, e che bella è beautiful, rossa è red. Questo, come dire, analizzando i testi, no, si può estrarre questa informazione. Quindi, apprendo le regole, scopro le probabilità col quale una certa parola si traduce in un'altra e le rimetto insieme. Nessuna intelligenza in sé per sé, semplicemente mero calcolo statistico. Per esempio, prendiamo, non so, tutti i testi dell'Unione Europea vengono tradotti in varie lingue, no? Questi sono delle fonti ottime per questi software, diciamo, per capire come si dovrebbe tradurre. In pratica, questi software cercano delle frasi simili già tradotte da qualcuno. È così, sostanzialmente? Hai parlato dell'Unione Europea. L'Unione Europea rilascia proprio tutte le sue traduzioni proprio per questi fini. Ecco. Ma anche il web stesso è ricco di informazioni. Immagina il sito della Apple, è tradotto in 10 lingue. Certo. Già questi testi possono essere presi e apprendere da questi testi come tradurre di nuovo. Quindi il computer in questo caso cerca nel suo enorme database, cerca la frase più simile, quella che ci assomiglia di più, e a quel punto dice probabilmente si tradurrà nello stesso modo e fa la traduzione senza nessuna comprensione, dicevamo. Ecco, qual è il prossimo step a questo punto per migliorare, per rendere più efficienti questi sistemi di traduzione? Guarda, è difficile dirlo perché dal 1947 continuano a dire che fra 5 anni il problema della traduzione automatica verrà risolto, no? In questo caso Turing e Weaver prevedevano questo mentre costruivano il computer. Oggi noi abbiamo a disposizione circa 100 miliardi di parole, quello che puoi prendere dal web o dai testi di pubblico dominio. Cioè è la base dati che questi sistemi di traduzione utilizzano, circa 100 miliardi di parole. Per apprendere come tradurre. Oggi questa base, prima cosa che vedo il futuro, è che questa base, la quantità di dati disponibili in realtà è 100 volte più grande. Okay. Quindi mi immagino che questi sistemi avranno a disposizione archivi molto più grandi e conoscenza molto più grande. E sappiamo che appena i dati aumentano, la qualità aumenta. Certo. La seconda cosa è che da questi dati bisogna estrarre più informazioni. Sì. Oggi stiamo estraendo quasi niente, giusto? Come una certa parola, con quale probabilità venga tradotta. Faccio l'esempio del bambino. Il bambino quando apprende la lingua dai genitori sente la frase giocare a palla, tira la palla, giocare a tennis, capisce a un certo punto che fra giocare e palla c'è un legame, non sono parole scollegate che stanno nella stessa frase così per caso. Esattamente, e quindi poi può imparare a come utilizzarle in contesti mai visti. Ecco, questo possiamo definirla già intelligenza artificiale, se riusciamo a far fare questo tipo di passaggio alle macchine e ai computer? Certo, questa branca qui, intelligenza artificiale. Diciamo, ci dovremmo avvicinare in quella che è, si chiama intelligenza artificiale forte, cioè effettivamente il computer che sia in grado di ragionare come un umano. Sostanzialmente di ragionare come un umano. Grazie, grazie Trombetti. Grazie, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.